Come comitato dei genitori, anche voi avete aderito sia alla campagna per questo sabato per abbracciare i prati di Caprara e sia al monitoraggio dell'aria che è stato poi conseguente, se ho capito bene, al primo monitoraggio che si è fatto con Aria Pesa. Sì, noi come genitori vediamo con molto interesse e molto favore un evento, un'iniziativa come questa, perché ci sembra un modo festoso per sottolineare l'importanza di valorizzare aree come quella dei Prati di Caprara, che rappresentano una grande risorsa per tutta la città, proprio perché sono, come bosco urbano, una risposta a un problema diffuso presente come quello dell'inquinamento dell'aria. E proprio su questo, in questi giorni, quasi 2/3 delle scuole di Bologna sono coinvolti in una campagna di misurazione del biossido di azoto. E fra qualche mese sarà possibile avere una mappa completa partecipata con i valori di questo inquinante nell'aria, in particolare riferito a tutte le aree scolastiche di Bologna.